Un ben ritrovati insieme alla voce di Marco Garavelli nello spazio di Arden Daily ogni venerdì sera dalle 20 alle 21 con lo spazio live, dal lunedì al giovedì con interviste, novità, approfondimenti, tante news e anche molte cose legate al passato del mondo dell'hard rock e dell'heavy metal. Ma il venerdì è caratterizzato da due proposte live, una nella prima parte più hard rock e una nella seconda parte più heavy metal. Beh, oggi caliamo sul nostro virtuale tavolo da gioco due carte pesanti, due nomi importantissimi, AC/DC e Motorhead, due album fondamentali, due album tra i più belli di quelli registrati dal vivo. Tutto grazie naturalmente al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 a Milano, e il nostro Simone che ha lavorato per concentrare la storia di queste due band, e ce n'è molto da dire. Sto parlando di AC/DC e Motorhead, quindi cerchiamo di correre perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è quello che è. AC/DC, uno dei live album più belli della storia. If You Want Blood, You Have Got It. È il loro primo live album, uscito nell'ottobre del 78 dopo 5 lavori in studio. Raggiunse la 13ª posizione nelle charts inglesi, il loro miglior piazzamento fino al 78. La data è quella registrata per il concerto che si è tenuta il 30 di aprile del 78 a Glasgow in Scozia, presso l'Apollo Theatre. Glasgow è una città molto importante per la band, infatti è la nazione dove sono nati i due fratelli Young. Successivamente, quando ancora bambini, la famiglia si trasferì in Australia per motivi economici. La lineup di quel live album: naturalmente Bon Scott, il cui vero nome è Ronald Belford Scott alla voce, Angus Young chitarra, Malcolm Young fratello all'altra chitarra, Cliff Williams basso, Phil Rudd batteria. A parte il cantante, sapete, purtroppo è deceduto, la lineup è quella attuale. Andiamo subito ad ascoltare il brano intitolato Problem Child, AC/DC da If You Want Blood, You Have Got It. inconfondibili. Il riff di Angus, la voce strozzata di Bon Scott, If You Want Blood, You Have Got It, questo grandissimo album uscito in vinile, uscito naturalmente anche in CD. Se non lo avete, vi tiro le orecchie, andatevelo ad acquistare perché è veramente uno dei più grandi live album della storia dell'hard rock. Continuiamo, anzi iniziamo, la storia di questa band che abbiamo detto arriva dall'Australia, anche se l'unico vero musicista australiano è il batterista, cioè Phil Rudd. I fratelli Young, come abbiamo detto, sono scozzesi. Brian Johnson e il bassista Cliff Williams sono inglesi. Brian Johnson, l'attuale cantante. Anche Bon Scott invece era scozzese. Il gruppo nasce in quel di Sydney alla fine del 73, grazie ai due chitarristi Angus e Malcolm Young, insieme al primissimo cantante che si chiama Dave Evans, con il quale incisero anche un singolo dal titolo Can I Sit Next to You Girl. Subito dopo Evans lasciò la band e il suo posto fu preso da Bon Scott nel 74. Per quanto riguarda il nome, fu suggerito da Margaret Young, che è la sorella di Angus e Malcolm, quindi questo è un piccolo aneddoto. Anche Bon Scott, come vi dicevo, come i fratelli Young, era scozzese. La curiosità che ha scovato il nostro Simone è che lui era l'autista del tour bus degli AC/DC. Quando Dave Evans lasciò la band e loro cercavano un nuovo vocalist, avendo alle spalle già una piccola esperienza come cantante, fu scelto e divenne il vero principale cantante della prima parte degli anni 70 della storia degli AC/DC. Altro brano dopo Problem Child, questa è un'altra canzone che si intitola Hell in a Bad Place to Be, AC/DC Live. Hell and a Bad Place to Be, AC/DC, nello spazio di Arden Devi del venerdì e spazio live in compagnia di Marco Gravelli su Rock FM. Abbiamo iniziato quindi a parlare di come in Australia, in quel di Sydney, la band ha trovato la sua lineup definitiva per la prima parte della carriera, e quindi arriva anche l'esordio discografico. 1975, l'album si intitola High Voltage, pubblicato dapprima solo in Australia, che comunque raggiunge la posizione numero 7. A seguire arriva il secondo album, TMT, 1976, anch'esso pubblicato solo in Australia e Nuova Zelanda all'inizio. Arriva al numero 2 nelle classifiche australiane. Segue poi un'intensa attività live che gli permette di ottenere un contratto mondiale con la Atlantic Records, che finalmente ripubblica i primi due album, con copertine anche differenti, se non sbaglio, perché mi sembra di averli a casa e ci sono delle copertine diverse tra quelle del mercato italiano, quindi europeo, americano, e quello originale australiano. Partono poi anche in tour in Europa a supporto di Kiss ed Aerosmith, ed è con il quarto album, Let There Be Rock, del 77, che la band trova il suo classico stile che ne contraddistinguerà la successiva discografia. L'album raggiunge la 17esima posizione in Inghilterra e viene seguito un anno dopo da un altro grande album dal titolo Power Age. Poi arriva la registrazione di questo loro primo album live, cioè If You Want The Blood, You Have Got It, dal quale stiamo proponendo le canzoni. E quindi andiamo ad ascoltarne un'altra, si intitola Rock and Roll Damnation. Ricordo la data di registrazione, il 30 di aprile del 78, in quel di Glasgow. Rock and roll damnation. rock and roll, Damnation, AC/DC dal vivo, dal loro primo live album ufficiale, naturalmente. Allora arriviamo alla pubblicazione di questo live nel 78 e l'anno seguente arriva uno dei due album top della loro carriera, cioè I Go To Hell, che gli permette di ottenere anche un grandissimo successo negli Stati Uniti d'America. Quindi sono ormai una band dal successo mondiale. Tutto sembra andar bene, purtroppo, 19 febbraio 1980. Questa è la data in cui muore, purtroppo, in quel di Londra, con un cocktail tra medicine, droga, eccetera, e alcol, Bon Scott. La band, nonostante lo shock, proseguì a comporre nuovi brani e cominciano anche le audizioni per cercare un nuovo vocalist. Il nostro Simone ha scoperto e scovato un piccolo aneddoto. In principio, come sapete tutti che il cantante poi scelto fu Brian Johnson, in principio però contattarono Mark Storace degli svizzeri Crocus, che rifiutò perché preferiva restare nella propria band svizzera, che all'epoca godeva di una certa notorietà, e il sound dei Crocus, lo sapete, i loro primi dischi erano pari pari, uguali a quelli degli AC/DC come sound, e anche la voce ricordava. Alla fine, appunto, si scelse su la scelta cadde sull'inglese Brian Johnson, di origini italiane, nonni pugliesi, che proveniva da una band chiamata Jordi. Entrò ufficialmente nella band con l'album del 1980, il secondo mega classico del gruppo, Back in Black, che ebbe un successo mondiale, arrivò al numero 1 in Inghilterra, 2 in Australia, 4 in America. A tutt'oggi ha venduto 43 milioni di copie in tutto il mondo e penso che giorno dopo giorno qualcuno comprerà ancora quest'album. Gli valse questo tour di successo incredibile. Io li ho visti proprio in quel tour, in quel di Zurigo, però arrivarono al top con il Monsters of Rock di Donington. Altro brano che andiamo ad ascoltare sempre da questo live per il nostro spazio di Hard and Heavy su Rock FM è Whole Lotta Rosie. Ain't no fear in the story. Ain't no scared of mine. Scott alla voce, Angus, Malcolm Young alla chitarra e Cliff Williams al basso, Phil Rudd batteria. If You Want Blood, You Have Got It, il titolo di questo live album per gli AC/DC, erano le note del motivo intitolato Whole Lotta Rosie. E siamo alla parte finale della storia di questa band che ci porterà ai giorni d'oggi. Arriviamo al 1981, dopo il grande successo e il tour mondiale di Back in Black, arriva un altro album importante, For Those About to Rock, We Salute You, quello con i cannoni, con la copertina d'oro, che per la prima volta permise alla band di arrivare al numero uno in America. Da questo lavoro in poi ne pubblicano altri 6 ufficiali, a parte poi altri live, un altro doppio live, antologie varie. L'ultimo è stato Stiff Upper Lip del 2000, che era raggiunto i primi posti di quasi tutta l'Europa, Svezia, Finlandia, Germania, Austria, eccetera. Per quanto riguarda la lineup odierna, è stabile dal 1994, visto che alla batteria è rientrato lo storico Phil Rudd. Le ultime notizie ci danno la band in studio per registrare finalmente un nuovo album che potrebbe uscire nel 2008, dico potrebbe. Allora, purtroppo il tempo a nostra disposizione è quello che è. Io ringrazio Simone che è riuscito a condensare con anche piccoli aneddoti la storia di questa incredibile band in pochi minuti. Noi andiamo ad ascoltare un altro estratto, il brano che chiudeva questo concerto, perlomeno questo vinile, nonché pubblicato poi in CD, cioè il motivo intitolato Rocker. E nella seconda parte avremo i Motorhead dal vivo, qua su Rock FM in Arden Devil. Yeah. seconda parte di Arden Devi, un altro grande gruppo. Come anticipato, dopo aver ascoltato il sound degli AC/DC, andiamo a prendere un'altra pietra miliare nel mondo dell'heavy metal per quanto concerne i concerti live, per quanto riguarda i vinili. Poi questo vinile è uscito a metà dell'81, è stato ristampato in CD nel 1996. Sto parlando di No Sleep Till Hammersmith per i Motorhead, il loro primo live album. Poi ne sono usciti una marea, uno poc'anzi, da pochi giorni, ed è considerato comunque uno dei migliori album live mai incisi. Non si tratta però di un unico concerto, ma di una selezione delle canzoni registrate durante le tre date che hanno tenuto: il 28 marzo a Leeds, il 29 e il 30 marzo a Newcastle. Album che presenta 11 tracce e ha raggiunto la posizione numero 1 delle classifiche inglesi. Allora, sapete che naturalmente il leader di questa band porta il nome di Ian Fraser Kilmister, cioè Lemmy. Lo conosciamo tutti col nome di Lemmy, che è lui a cappeggiare questo potentissimo trio. Andiamo ad ascoltare subito questo album, il brano, uno dei miei preferiti della loro discografia, cioè Overkill. Get it back! mamma mia che versione infuocata questa di Overkill, grandissimi. Da No Sleep Till Hammersmith, la formazione è quella dei Motorhead, nati nel 1975, quindi come vi dicevo, grazie a questo personaggio pazzesco che porta il nome di, o il soprannome o il nickname di Lemmy. Lemmy quindi crea il gruppo che dapprima come moniker utilizza Bastard, il nome Bastard, che poi presto viene cambiato nell'attuale famoso Motorhead, che deriva dalla canzone che aveva composto Lemmy quando ancora militava in una delle sue band precedenti, cioè i famosi Hawkwind. I Motorhead oggi sono famosissimi in tutto il mondo, non hanno praticamente però avuto un inizio facile a livello di carriera. In effetti la loro etichetta addirittura all'epoca si rifiutò di pubblicare l'album d'esordio, si intitolava On Parole, perché non era ritenuto all'altezza. Curiosità è che occorsero ben 2 anni perché venisse pubblicato, dopo che avevano ottenuto una certa notorietà almeno in patria con diversi concerti. L'esordio quindi arriva tramite questa Chiswick Records nel 1977 con l'omonimo album registrato in 2 soli giorni e che raggiunse comunque la 43esima posizione delle classifiche inglesi. Andiamo a prendere in considerazione un'altra traccia da questo lavoro, ripeto, fondamentale, No Sleep Till Hammersmith. Il pezzo si intitola Bomber. Bomber. Questa era Bomber, titolo di un album. Abbiamo ascoltato in sequenza Overkill e Bomber, che sono praticamente i titoli dei 2 lavori che sono seguiti dopo l'esordio e sono usciti nel 1979 a 7 mesi di distanza l'uno dall'altro, ed entrambi arrivarono alla posizione numero 12 in Inghilterra. Arriviamo così all'anno seguente, il 1980, anno nel quale viene pubblicato quello che è considerato il loro capolavoro, Ace of Spades, la cui title track è stranota, straconosciuta. L'album raggiunse la quarta posizione, sempre in Inghilterra. Seguì poi un tour durante il quale registrarono questo album, No Sleep Till Hammersmith, che ripeto è stato stampato nell'81, ristampato in CD nel 96. Oggi lo trovate tranquillamente, probabilmente hanno stampato anche altre versioni con altri brani di quella serata che non erano tutti presenti in di quelle serate, perché erano tre, che non erano tutti presenti in questo vinile. E con questo No Sleep Till Hammersmith diciamo che si può concludere quello che può essere definito un periodo d'oro, sicuramente d'oro, per la formazione. Altro brano classico che andiamo a proporre, in questo caso è l'ultimo della B-side, cioè il brano che dà il nome alla band, ovvero sia Motorhead. Fast Eddie Clark alla chitarra, naturalmente Lemmy voce basso. Questa era Motorhead, il brano che dà il nome alla formazione, alla band. Stiamo quindi ascoltando estratti da questo No Sleep Till Hammersmith nello spazio di Hard and Heavy ogni sera dal lunedì al venerdì, quello del venerdì dedicato alle band live con i loro lavori ufficiali. Da prima Aerosmith ed ora da prima AC/DC ed ora Motorhead. Continuiamo con la storia della band. Vi ho citato Fast Eddie Clark, chitarrista che dopo la pubblicazione di quest'album purtroppo nell'84 se ne va, e a quel punto vengono ingaggiati ben due chitarristi, Wurzel e Campbell, quest'ultimo ancora in lineup, portando quindi la formazione a quattro elementi, non più a tre. Ed è con questa lineup che pubblicano dapprima il loro Best of No Remorse, con i loro classici risuonati più canzoni nuove, e successivamente nel 1986 il nuovo album famoso abbastanza, Orgasmatron, che però non riesce a ripetere il grandissimo successo dei precedenti album. Dopo i diversi cambi di etichette arriviamo al 1990, si segnala il primo contratto con una major, perché i loro lavori precedenti erano sulla Bronze Record, che pur essendo in importante e grossa non era una major come la BMG Sony, attualmente si chiama BMG Sony, che pubblicherà l'album 1916 che li riporta ad alti livelli, tanto da ottenere addirittura una nomination, una delle, ne hanno avute diverse devo dire, di nomination ai Grammy Awards, ma soltanto di recente, e poi lo troveremo, riusciranno a vincere un Grammy Award. Arriva il momento ora di un altro brano, l'abbiamo citato, l'abbiamo chiamato, è praticamente il loro successo, in questo caso il pezzo con che apriva questo concerto, Ace of Spades, Motorhead. Dal vivo, una versione spettacolare del loro mega classico intitolato appunto Ace of Spades, ricatturata dal vivo da questo No Sleep Till Hammersmith, che andremo a ritrovare e riascoltare con altri brani tra pochissimo. Però il tempo di citare che nel 92 arriva un altro cambio di formazione, se ne va Phil T. Taylor, batterista della band, arriva lo svedese Mickey D, proveniente dal gruppo di King Diamond, che ad oggi è ancora presente in formazione. La curiosità è che Lemmy lo voleva già nel 1985, ma Mickey all'epoca aveva rifiutato. Nel 95 abbandono di uno dei due chitarristi, Wurzel, il che portò nuovamente la lineup ad essere a tre elementi, formazione che resiste sino ad oggi. Altro brano che andiamo a proporre, un altro classicone, del resto sono tutti così, da questo bellissimo album live, si intitola Iron Horse. An open highway, but don't have no bends. rides a whirlwind that cuts to the bone. Wasted forever, ferociously stoned. An iron horse is blind. An iron horse is gladly lying. Iron horse is awake. Iron horse is blind. Ancora applausi naturalmente per la formazione, quella dei Motorhead. Tra poco ascolteremo anche l'ultimo estratto. Arriviamo quindi all'ultima parte delle note biografiche preparate dal nostro redattore Simone. Siamo al 1995, abbiamo detto il chitarrista Wurzel se ne andò. La band nel corso degli anni, dal 95 al 2007, ha cambiato diverse etichette. Ha pubblicato numerosissimi album, ha fatto tanti tour, tanti Gods of Metal, Monsters of Rock, Festival, insomma. L'ultimo album risale allo scorso anno in studio, si intitola Kiss of Death, è andato molto bene a livello di vendite in Grecia, in Svezia, in Germania. In tema di premi, ve lo citavo in precedenza, dopo aver ricevuto diverse nomination, solo nel 2005 i Motorhead hanno vinto un Grammy Award come Best Metal Performance. L'ultima uscita discografica invece è arrivata proprio nel mese di luglio, quindi poco tempo fa. Ancora una volta un album dal vivo, uno dei tanti, ma ripeto e sottolineo, questo è fondamentale, è il loro primo. L'ultimo album live si intitola Better Motorhead Than Dead Live at Hammersmith, tanto per cambiare, sempre lì li registrano, registrato nel 2005 in occasione del 30° anniversario della band. Quindi chiudiamo il nostro appuntamento di quest'oggi con AC/DC dal vivo, Motorhead dal vivo. Ringrazio coloro che mi hanno seguito sino a questo punto. Ci ritroveremo con Arden Devi il prossimo lunedì sera, sempre col nostro sponsor Mariposa Dischi Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Da Marco Gravelli è veramente tutto, un saluto e un ringraziamento a Simone. Vi lascio con l'ultimo pezzo, si intitola No Class.